Dialogo 44. Raccontò Abdullah bin Amr. Un giorno fu chiesto all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e Allah bin gloria, chi è il migliore degli uomini? Egli rispose, chi è puro di cuore e sincero di lingua. Lo interrogarono, sappiamo che cosa vuol dire sincero di lingua, ma puro di cuore che vuol dire? Rispose, il puro di cuore è colui che è timorato e la cui anima è senza macchia. Il puro di cuore non conosce il peccato, né la trasgressione, né l'inganno, né l'invidia.